Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per il soundcheck? Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, prova del suono numero... A che puntata siamo arrivati? 192 qui su Radio 24 e oggi torna da noi, torna a trovarci il Messier DJ, Mr. DJ Alex Paletta, uno dei miei spacciatori di musica preferiti. Ti ringrazio, buonasera, ciao a tutti. Ti no. trovo molto bene Alex, anche se sei chiuso in uno studio per 14-15 ore al giorno. Non più. Non più come una volta, no. Però, non più come una volta, però insomma mi do da fare. Reggi, poi so e ti voglio fare anche gli auguri e i complimenti che poi quando torni a casa ti rilassi pur avendo certo. in giro per le stanze un piccolo terremoto che gruva non poco, che esatto. è tuo figlio che ha quanti anni? C'ha 2 anni e 4 mesi, quindi direi che la parola relax ancora non riesco a vederla da qualche anno a sta parte, però insomma ci divertiamo. Beh, certamente ti riposerei quando avrà 18 anni. Esatto, grazie. Prego, figurati. Senti, ma che fai? Gli fai ascoltare musica? Ma guarda, io di solito ascolto musica io a casa e lui ovviamente l'ascolta anche lui perché sta a casa con me. E no, sembra che gli piaccia. Tipo che cosa apprezza? Ma guarda, gli piacciono le cose calme, che lo distendono, che lo rilassano. E ultimamente a me mi ha quasi mandato in puzza, se te lo posso dire, il disco di Beck, perché è da febbraio che lo sento quasi tutte le mattine perché lo vuole sentire. Io già ho capito questo ragazzo. No, questo viene fuori un hippie californiano. Ma speriamo di no. Eh sì, pronto con la sua tavola da surf. No, io spero che magari diventi un medico, faccia proprio un'altra cosa più... È no, difficile, con un papà DJ? Ma non lo so, staremo a vedere, te lo auguro, guarda, un bel medico in famiglia... Fa sempre comodo. Fa comodo. Cioè. Invece, per quanto mi riguarda, mia figlia, che adesso ha 10 anni, mi ha posizionato nella sua personale classifica tipo all'11º-12º posto. Vabbè, buono. Ma così più per motivi di parentela. Di parentela, che, beh certo. Che per affinità. Però io mi vendico perché di notte le mando dei messaggi subliminali, quando lei si addormenta entro con le piccole cassettine e il telefonino e metto Ella Fitzgerald, e fai tanto bene. Per farle arrivare un po' di indovena, swing, diciamo. Sì, per scremare cioè, tutte le scorie che riceve dalla televisione. Lo so, è un lavoraccio difficile che toccherà fare pure a me. Esatto, allora siccome tu sei uno dei miei pusher preferiti di discografia, se possiamo chiamarla così, lo ripeto, che cosa mi hai portato per aprire questa bella puntata, la 192? Allora, ti ho portato il tuo piatto preferito. Oh! Fat Freddy's Drop. Pensavo grasso. Mi dicessi cozze e fagioli, certo. Fagioli e cozze, patate, no, fagioli e cozze, alla barese. No, Fat Freddy's Drop. Fat Freddy's Drop, che sono usciti con un singolo nuovo a inizio ottobre, mi sembra il 10-12, e poi ho scoperto che sono anche in tournée lì dalle loro parti. Quindi Australia, quindi Nuova Zelanda, perché con il sangue Maori preferiscono stare da quelle parti. Beh, comunque sì, insomma, diciamo che sono abbastanza legati alla loro terra, alla loro lì terra, fanno le famiglie, quindi... poi fanno sold out clamorosi, esatto, insomma lì si vive bene, si vive ancora bene da quelle parti. Che guarda, dici? Non ci sono mai stato, ma immagino proprio di sì. Se viene fuori sta musica, ho amici che vanno lì, lavorano lì e lì si sta bene. Cioè, non la sentono tutta questa pressione che sentiamo noi in Italia o in Europa, tant'è vero che pare abbiano avuto un po' di casini con un management tedesco, no? Guarda, è una leggenda che è uscita qualche anno fa, il fatto che abbiano dato una solaccia, abbiano tirato un pacco enorme ad un management europeo e quindi insomma l'abbiano, come dire, bannati per un paio d'anni. Quindi non potranno... Non possono tornare in Europa. Possono tornare in Europa, e voglia. Infatti, il fatto sta che sono tornati tipo un anno Alex, fa. Due ma anni che fa. Voi, quelli sono indipendenti da sempre. E poi hanno il sangue Maori. E quindi? Come possono legare con la precisione tedesca? No, no, tra l'altro, vedi, la tournée si chiama come il singolo Slings and Arrows, ovvero fionde e frecce, che sono quelle che gli stanno tirando però i tedeschi a loro. Fat Freddy's Drop al soundcheck di Radio 24 by Alex Paletta. Mi piacciono un sacco. Fat Freddy's Drop sono stati in Italia, io me li sono persi, speriamo che possano tornare prestissimo. Per esempio io Fat Freddy's Drop li vedrei molto bene nell'Arena di Santa Giuliana lì a Perugia durante Umbria Jazz, eh? Beh, potrebbe essere una bella cosa, insomma è un bel palco. Li devo consigliare al direttore artistico Carlo Pagnotta, diglielo subito, glielo devo dire subito. Certamente Fat Freddy's Drop, nuovo singolo Slings and Arrows, in distribuzione credo dallo scorso ottobre, quindi a poco più di un mese, in tournée in Australia e Nuova Zelanda in questo momento, e con questo andazzo caldissimo tipicamente reggae, anche se poi loro dal vivo suonano di tutto, dal R&B al soul, comunque tutte composizioni originali, con la voce meravigliosa del loro vocalist che ormai ha dato un marchio di fabbrica alla band. Sì, assolutamente, un po' come le ritmiche e i bassoni di DJ Fitch, che è l'altro. Esatto, che è il partner, che poi è anche l'ingegnere del suono della band, è quello che in studio fa tutto lui. Allora, restiamo un po' in clima reggae con una versione di un cavallo di battaglia di Bob Marley, Waiting in Vain, per le voci splendide insieme di Diane Reeves, regina del jazz internazionale, e Lala Hathaway. Le ho dedicato quasi un'intera puntata qualche settimana fa a Lala Hathaway, e che dire, è tutto da gustare questo arrangiamento creato per l'album Beautiful Life di Diane Reeves qui al soundcheck di Radio 24. From the very first time I rest my eyes on you, boy, my heart said follow through, but I know now that I'm way down on your line. And the waiting feeling fine. So don't treat me like a puppet on a string, because I know how to do my thing. Don't talk to me as if you think I'm done. Soundcheck. Il suono della musica. Mr. DJ Alex Paletta, ma soprattutto eccellente producer radiofonico, abbiamo lavorato tanti anni insieme facendo radio anche a grandissimi livelli, te lo vorrei ricordare mio caro Alex Paletta, è stato un onore conoscerti. Eri un ragazzo, sì, perché quando abbiamo iniziato a lavorare te avevi forse 22-23 anni. Sì, 22-23 anni. Mamma mia, che vergogna, lo dico per me che ormai ho scavallato. Allora, sì. Alex Paletta, nostro ospite, che presto si trasferirà per qualche giorno a Londra. Che cosa andrai a fare a Londra? Allora, a Londra, diciamo il terzo weekend di gennaio orientativamente, si svolgono i Worldwide Awards, che sono i premi, miglior album, miglior traccia dell'anno, miglior etichetta discografica dell'anno e bla bla bla. Quindi non una cosa legata al mercato inglese, ma al mercato mondiale, però di un certo tipo di musica, che è diciamo quella che ruota attorno al programma di Giles Peterson. Che è quella che piace a te. Che è quella che piace a me, sì, esatto, è quella che propongo anch'io quando faccio le serate dal vivo, è quella che propongo sulla mia radio web, insomma. Sì, perché tu nella tua cameretta, adesso non è più una cameretta, ma nella tua cameretta hai alcune fotografie, da Bob Marley a B.B. King fino a Papa Francesco, e poi c'è Giles Peterson. Papa Francesco, no. Non l'hai ancora attaccato, no, Papa Francesco. No, vabbè, non penso di attaccarlo. Però Giles Peterson c'è. Beh, se devo preferire tra i due, sicuramente Giles Peterson. No, senti, secondo te perché è stato importante per la discografia inglese e poi anche a livello internazionale un personaggio come Giles Peterson? Che cosa ha fatto? Allora, innanzitutto secondo me è stato importante perché è stato uno dei pochi che in Inghilterra non seguiva il rock. Io non ho mai sentito un pezzo rock nelle sue trasmissioni. E già, a chi lo dici? No, per dire, scusa. Ed è già qualcosa, nel senso che poi alla fine andavano tutti in quella direzione. E in più è uno che riesce a stare al passo coi tempi e soprattutto è riuscito a portare in Inghilterra, lui insieme a altre persone, insomma, saranno state un bel po' per creare un movimento, però la musica brasiliana è arrivata a noi europei tramite l'Inghilterra, e uno dei giochi che la proponeva era lui. Sì. La musica africana, idem, uno dei giochi che la proponeva in radio era lui. Perché aveva un grandissimo amplificatore che era la BBC, no? La BBC faceva i programmi più importanti. Londra, eccetera, eccetera. E poi organizzatore di concerti, direttore artistico anche di un'etichetta come la Talking Loud, che ha lanciato a livello mondiale l'Esigez, grandissimo anche. Talent Scout, insomma, è uno dei personaggi radiofonicamente parlando più interessanti del pianeta, ma da 20 anni. Da sempre, hai ragione. E Londra in questo momento, ecco, tu dicevi, una città tipicamente rock da un punto di vista discografico, negli ultimi anni, proprio per il lavoro di Giles Peterson, si è spostata sul versante world music, R&B, contemporary R&B, jazz, new jazz e via dicendo. E anche star americane come per esempio Mary J. Blige, per realizzare l'ultima produzione discografica che ha fatto, è andata a Londra, si è trasferita negli studi Abbey Road, quelli dei Beatles famosi, per realizzare London Sessions, dal quale ascoltiamo All Damn Ear. Mary J. Blige al soundcheck di Radio 24. In my heart, I was left with nothing. It took a whole damn year to repair my body. It took a whole damn year. It took a whole damn year to repair my body. It's been a bad 5 years. Gonna take a long, long year for me to trust somebody. Gonna take a long, long year. Gonna take a long, long year for me to touch somebody. It's been a bad 5 years. Oh yeah. Brano scritto a 4 mani con la partecipazione di Emily Sandé, anche lei forte, eh? Beh, Emily Sandé, sì, insomma, non è male. Non è una delle cose che mi è piaciuta di più negli ultimi anni, però... insomma, però sta andando bene. Sta andando bene, credo che solo con questo brano scritto insieme a Mary J. Blige potrà collezionare un bel po' di soldini. E poi finire di pagarsi il mutuo. Probabilmente sì. Messi e Alex Paletta, nostro ospite, per parlare di musica, parlare della sua passione, parlare anche di come è cambiata la tecnologia in aiuto dei disc jockey, che non si devono più portare né il vinile e neanche i CD, assolutamente no. Io vedo la borsa professionale del mio amico Alex Paletta, che una volta era un borsone da chirurgo, esatto. Adesso invece è una bustina di plastica con una decina di pennette USB che hanno tipo quanti giga di materiale? No, beh, ce n'ho diverse, perché ci sono dei player, dei CD player, che ancora non leggono quelle molto capienti, o comunque ci mettono tanto. Quindi ho dei backup da 2-4 giga, oppure anche delle cose più sostanziose da 16 giga. E tu mi hai anche raccontato che in casi estremi hai fatto le serate sul telefonino, con un'app che ti permette... No, perché è vero, esiste. Voglio, certo. Volendo sì, certo, non ci fai la guerra, no? Fai palchi con 2000 persone, però se stai in una vineria, magari l'iPad, non il telefonino. Il telefonino è un po' scomodo. Senti, per fare le tue serate utilizzi sempre discografia ufficiale, o anche tu vai a fare belle scorpacciate come stiamo facendo noi sui portali tipo Bandcamp, SoundCloud e via dicendo? Perché non è discografia ufficiale quella lì? No, quella è discografia ufficiale, ma nel senso quella che non viene proposta dalle major, o che non troviamo nelle classifiche, o che non troviamo soprattutto nei negozi di dischi. No, sicuramente le cose che propongo io, sia nei DJ set che in radio, sono la maggior parte delle cose non vengono dagli ambienti mainstream, ma comunque da etichette più piccoline, più indipendenti, quello sicuramente. Quindi Bandcamp sì, lo uso parecchio anche SoundCloud, parecchi free download che sono comunque interessanti. Senti, insomma, che tipo di pubblico frequenta le tue serate, o comunque che tipo di pubblico viene a ascoltare la musica che tu proponi? Perché io ho notato che c'è una grande carenza, per esempio lo vedo nei concerti di jazz, di ragazzi, di giovani. Cioè i conservatori, i dipartimenti di jazz sono pieni di ragazzi, però questi non vanno più a vedere i concerti come facevamo noi. La musica la seguono solo attraverso internet. È un guaio questo. Sì, è un guaio, ma è anche il 2014. Se oggi funziona così, evidentemente, cioè, girano meno soldi e quindi se tu esci la sera comunque spendi qualcosa, no? Se invece stai a casa davanti al computer c'è le stesse informazioni. Capito, però se vuoi fare il musicista, fare il musicista da grande, tu devi incontrarli i musicisti, devi vedere come si muovono, non solo ascoltare, ma vedere come si comportano sul palco. Cioè, c'è tutto... Infatti quello è fondamentale, solamente invece di farlo 4 volte a settimana lo fai 2 volte. Ma mi sa che questi non lo fanno proprio. lo fanno proprio. Allora andiamo un po' alla discografia indipendente. Questo è un ragazzo che noi abbiamo conosciuto attraverso SoundCloud, bravissimo. Anche lui deve, non so se ha sangue maori, credo di no, però è australiano, si chiama Jordan Rackay, quindi fa parte di quella nuova combricola, quel nuovo circuito australiano che vede fra i protagonisti anche Hiatus Keyote con Napalm. Jordan Rackay con French Kiwi Juice, il brano è Learn to Fly al soundcheck. Yo, I heard it cross the grapevine. Sweet taste of my alibi. Yeah. It's a dangerous scene with no one who heard it right. Any color, cause it takes time. Eclipse of this moonlight. Yeah. Yo, as strange as it seems, with nothing but us tonight. Yeah. Said I'll speak to you to prove that I'm the reason tonight. Soundcheck. Il suono della musica. Sì, è arrivato anche in Italia Get On Up, la storia di James Brown, film biografico diretto da Tate Taylor, con protagonista questo bravissimo attore, giovanissimo Chadwick Boseman, nei panni di James Brown. Godfather of Soul, il padrino del soul, qui al soundcheck di Radio 24 in una versione remix, o meglio Jungle Power Mix di Soul Power per Maceo Parker, no? No, è bellissimo i nomi che danno alle varie versioni, no? Alla versione, sì, questo è Jungle Power Jungle Mix. Power, Power. Sì, certo. E comunque resta sempre James Brown e soprattutto le sue ritmiche. Con le sue ritmiche l'artista più campionato dai disc jockey. Ma così sarà per sempre. Per sempre. Per sempre, ma, perché non ce n'è. Ma lui me lo disse, no? Io l'ho incontrato diverse volte durante l'ultima intervista fatta tra l'altro a Perugia. E come me la ricordo? Proprio l'ultimo. Ma c'era anch'io. Quella è stata la mia prima volta che ho visto James Brown. È stata la tua ultima e la mia prima. E questa cosa ce la teniamo proprio stretta. Ma sì. Tu ti ricordi che si aprì la porta del Carmelino che mi chiamarono, prego, Mister Telesforo, possiamo fargli intervista, e James Brown aveva i bigodini, cioè, meraviglioso. Ma tu ti ricordi che stavo entrando e mi hanno chiuso la porta in faccia e non sono riuscito a entrare. Allora io non posso che raccontarti quello che è successo. Intanto io feci i complimenti, mi inginocchiai e gli ricordai che era stato da me ad hoc e bla bla bla. Alla fine ogni domanda lui mi rispondeva because God mi ha dato, Dio, Gesù mi hanno dato il dono del funk, perché io sono l'inventore del funk, il funk vivrà per sempre, bla bla bla bla. Io alla fine dell'intervista, guardandolo negli occhi, gli ho detto: Mr. Brown, io le devo dire una cosa, io voglio più bene a lei che al Papa. E lui, che fino allora aveva fatto dichiarazioni come se fosse l'angelo sceso in terra, l'angelo del funk, naturalmente mi abbracciò e ci fecero fotografie. Questa cosa è rimasta e negli archivi di Umbria Jazz per una bellissima registrazione di Paolo Massoli. Il regista Paolo Massoli è pregato di farmi avere quel filmato, per favore. Sì, me l'ha promesso, vedere. Ormai sono passati, da quanti anni è morto James Brown? Non si sa. Però insomma andiamo a vedere Get On Up, perché è la storia di di un grandissimo protagonista della musica di tutti i tempi, un vero eroe. Io non l'ho visto e insomma sì, mi sto organizzando per andarci perché insomma è comunque una cosa da vedere. Eh sì, poi bisogna andare a vedere il film dopo aver letto la biografia, l'autobiografia di James Brown, che quello è molto interessante, è quella grandiosa, cioè il primo artista a comprarsi un aereo perché per tenere il passo con tutti gli impegni concertistici negli Stati Uniti si comprò l'aereo e sulla carlinga dell'aereo che cosa scriveva, mio caro Alex Paletta? Faceva le tacche a ogni concerto, come a come ogni concerto, no, ma soprattutto tutti i titoli dei brani, numero uno in classifica. Dai, esatto, stiamo parlando di un grande che ha sparato più volte le varie mogli. James Brown con Funky Drummer al soundcheck chiude la prima parte, poi andiamo subito all'informazione di Radio 24 e poi Alex Paletta con noi. Hi everybody, today we will interview James Brown. How are you doing, Mr. Brown? Soundcheck. Il suono della musica. Pronti per la seconda parte di questo appuntamento con il soundcheck, la prova del suono di Radio 24. Nostro ospite, lo ripeto, sono felicissimo di vederti e di trovarti in grandissima forte. Monsieur Alex Paletta, producer radiofonico, ma soprattutto appassionato di musica e onnivoro musicalmente. Questa è la cosa che mi è sempre piaciuta di te, perché hai sempre ascoltato di tutto. Tu sei nato, io me lo ricordo bene, come appassionato di blues e volevi fare il chitarrista di blues. Beh, proprio il chitarrista no, però sì, suonicchiavo la chitarra, mi piaceva il blues e le cose che impari quando sei ragazzo, no? 15-16 anni, così un po' inizi a suonicchiare la chitarra o fai sia Battisti che B.B. King, che no, magari, però insomma la passione per la musica l'hai sempre avuta. E poi pure sì. A casa tu non hai veri appassionati di musica o no? Beh, insomma, mio padre canta in un coro gospel, no, ma figurati, in un coro molto più tradizionale. Però sì, insomma, non è che è circolata mai tanta musica dentro casa. Peccato, mi sarebbe piaciuto, no? Perché sono le storie che ci raccontano gli artisti internazionali, no? Mia madre magari la racconterà mio figlio. No, no, domani me la racconterà Robert Glasper. Tu lo sai che viene qui Robert Glasper, no, domani con gli Experiment. Sì, potevi dire, venivo domani pure io. Ma vieni pure tu. No, l'ho invitato a pranzo, quindi siccome poi abbiamo il programma alle 15:30, per me sarà un attimo. Non glielo ho ancora detto, no, però vabbè, vediamo che dire. Succede. No, e io già lo so perché la mamma di Robert Glasper era una formidabile cantante pianista di gospel. Vedi, tutte le fortune agli invece americani. Invece tuo padre era solo un cantante in un coro alpino. No. E vabbè, siamo italiani, che vuoi fare? E che ci vuoi fare? Senti, allora mi hai portato un'altra novità, pubblicato da qualche settimana, stiamo parlando del Duca Bianco. Esatto. Chi è? David Bowie. David Bowie è uno degli artisti che ho scoperto dopo aver scoperto James Brown, paradossalmente. Sì, no? Anch'io. E mi è piaciuto tutto quello che ha fatto nella sua carriera e ultimamente se ne è uscito con questo disco che mi ha spiazzato di nuovo. No? Sì, con il singolo. È un singolo, penso sia per una raccolta di grandi successi. Infatti è stato pubblicato un album triplo che racconta 50 anni di carriera di David Bowie. E ci sono brani che non sono mai stati pubblicati oppure in versione remix, anche delle cose inedite. E fra questi c'è un solo brano originale di oggi che nuovo. Si intitola Shoe Or in a Season of Crime, questo è il titolo di questo brano di David Bowie, che è fantastico, modernissimo. Sembrano un po' gli Heliocentric, non so se li conosci, però poi a un certo punto entra la voce di David Bowie ed è David Bowie. Assolutamente sì. È un po' come la tromba di Davis. E ti voglio dire una cosa, gli arrangiamenti di questo brano, e gli amici riconosceranno il piglio tipicamente jazz di questa big band diretta da una formidabile arrangiatrice che si chiama Maria Schneider, allieva di Gil Evans. Allora, hai capito allora, di chi allora stiamo ecco parlando? Perché ecco perché. Quindi un sound molto particolare fra il funk e la big band jazz, ma in chiave molto contemporanea e anche abbastanza sporca e dura, no? Sono contento che ti sia piaciuto. Mi è piaciuto tantissimo. Era un po' borderline come pezzo, no? Però secondo me gli piace. Assolutamente sì, mi è piaciuto tanto e infatti vorrei proporlo agli amici di Radio 24 che se ne intendono. David Bowie si intitola Sue or In a Season of Crime, il nuovo singolo al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Di nuovo in contatto con il Groovemaster Studio per questo appuntamento del Soundcheck, la prova del suono di Radio 24 con il nostro ospite Alex Paletta. Tanta musica mi hai portato, naturalmente non faremo in tempo a proporla tutta perché... Ma io te l'ho portata per fartela sentire. Poi... Beh, certo, io la sentirò con attenzione come sempre faccio perché sai che sono un ragazzo preciso. E anche a te ti piace tutta la musica. Mi piace tutta la musica. Sì, ci sono delle cose che proprio non digerisco, ma è una cosa genetica che viene un po' da mio padre. Papà, quando è stato ospite qui al Soundcheck, me l'ha anche raccontata la cosa, che lui non sopporta il suono della chitarra distorta. E soprattutto a casa c'era l'embargo nei confronti del rock e del rock and roll. E quindi, sai, sono cose di famiglia, si ereditano pregi e difetti. Che devo fare? Che devo fare? A parte che i chitarristi mi piacciono, però certamente se mi fai sentire heavy metal o hard rock pesantissimo, inizio ad avere qualche problema epidermico. Sì. Sei fatto così? Fatto così. Invece, anche se qui la chitarra è abbastanza in evidenza, è abbastanza presente, e stiamo parlando di un'altra band borderline, assolutamente, sì, posso dirlo, sconosciuta? Sì. Sconosciutissima. Sconosciuta, cioè... ai più, certo, bisogna conoscerli per conoscerli. Ecco, non c'è. Ti è piaciuta questa massima? È favolosa. Sì, perché già una band che si chiama Come on Tigre fa il suo effetto. Di cosa stiamo parlando, Paletta? Puoi definirli musicalmente. Guarda, stiamo parlando, ci ho pensato un po' venendo qui, perché sapevo che questo sarebbe la stato domanda... uno dei dischi, eccetera. È un suono che arriva dal Mediterraneo. Cioè, però, a differenza di tutti i suoni che arrivano e che suonano un po', passami il termine, couscous, sì, no? Questo qui ha l'appiglio contemporaneo e moderno e quindi mi è piaciuto un casino. Questa è una band che poi tra l'altro pare siano... due leader della band che però restano nell'anonimato, sì, e quindi credo che sia proprio un collettivo di musicisti. Esatto, è più un collettivo composto anche da alcuni musicisti italiani tipo Eusebio Martinelli e poi Enrico Fontanelli al quale è stato dedicato il brano che purtroppo è scomparso. Sì, ci ha lasciato uno dei componenti degli Offlaga Disco Pax, grandissima band, massimo rispetto, e vai Enrico. Allora, e tra l'altro questo brano che poi ha un titolo particolarissimo, dovrebbe essere pronunciato in francese, il mio francese è pessimo. Fédération Tunisienne de Football. Sì, Fédération Tunisienne de Football. Di football, ha anche un video che lo supporta, pazzesco, bellissimo, pazzesco, realizzato da un formidabile regista italiano, Gianluigi Toccafondo, che ha messo insieme più di 5.000 fotogrammi, quasi, non posso dire un cartone animato, però un'animazione. Un'animazione molto particolare, molto. Che racconta una partita di calcio sulla spiaggia magica, sì, ecco, sì, con sì, animali, sì, succede di tutto da vedere. Quindi per la prima volta al Soundcheck di Radio 24 un'altra proposta targata Alex Paletta, che quindi si assume le sue responsabilità, certo, per come ho sempre fatto. Come un tigre con Fédération Tunisienne de Football. Camon Tigre per la prima volta al soundcheck, una delle proposte che ha portato qui nel nostro studio Alex Paletta, tanto per farci capire che musica ascolta anche suo figlio a casa. Chissà come verrà fuori questo ragazzo. Non lo so come verrà fuori, però io continuo a sentirmi la mia musica e mi fa piacere il fatto che lui non dia particolarmente fastidio, ecco, mettiamola così. Molto bene. Allora ti voglio anticipare, mio caro Alex, che fra le piccole grandi scoperte che abbiamo fatto c'è questo producer di Brooklyn, giovanissimo, che si chiama Ahmed Sirur. Non lo conosci. Ahmed Sirur lavora nel suo studio di Brooklyn e fa dei remix eccezionali. Ah. Fa dei remix che non so quanto siano ufficiali, però recupera. Ma credo sotto i 30 anni, è giovanissimo. Non sono ufficiali, però sono formidabili. Dovrebbero diventare ufficiali adesso che li ha realizzati, perché ha fatto, per esempio, il remix di I Wish di Stevie Wonder, recuperando la traccia originale del canto di Stevie Wonder, Golden di Jill Scott, Happy di Pharrell Williams. Ma fatti con un gusto e una classe incredibile. Allora, visto che andiamo dal suono mediterraneo e tunisino della Federation Tunisienne de Football dei Camon Tigre, andrei al suono creato da Ahmed Sirur, afro sicuramente, rivisitato da un giovane di Brooklyn, quindi con il piglio comunque R&B, per questo brano intitolato You Will Return, che è uno dei successi prodotti dal tuo collega Quantic. Magari mio collega Quantic. Quantic, sei collega di Quantic. Sì, no, lui diciamo oramai è quasi più musicista che disc jockey, anche se continua a divertirsi soprattutto nella zona di Los Angeles. Sai che adesso vive a Cali. Certo, fa i DJ set, no? Fai DJ set, continua a dire. Ma tu lo sai il motivo? Te lo dico, posso io immaginare. Si fanno molti più soldi facendo i DJ set che portando in giro una band intera. Ah no, quello è sicuro. Molti più problemi, meno soldi. Quantic con la voce della bravissima Alice Russell nel remix di Ahmed Sirur per You Will Return al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Can't we just say, can't we let go? Oh, breathing inside, just let it show. Oh, don't wait and see, let it be so. Non mi dispiace per niente il suono dei Moonchild, così scarno ma efficace, una band di giovanissimi musicisti californiani, Andris Mattson, la bravissima sassofonista cantante Amber Navran e Max Brick, questi i nomi dei componenti dei Moonchild, che hanno già aperto i concerti di Stevie Wonder, molto apprezzati per esempio da Robert Glasper, io lo ricordo, poi magari fra pochissimo annunceremo e ricorderemo che domani Robert Glasper con i suoi Experiment sarà presente qui da noi. Adesso non so se riuscirò a fargli l'intervista o comunque a fare una puntata con lui, la puntata di domani, però ci faremo una bella mangiata, l'ho invitato a pranzo visto che sono in Italia per concerti e per promozione. Allora Moonchild con Nobody qui al Soundcheck Radio 24, nostro ospite Alex Paletta, e ormai abbiamo capito, Alex, per ascoltare musica certamente dobbiamo stare molto attenti a quello che ci propone internet, avere il buon gusto e anche la pazienza di andare a cercare il materiale di qualità, e poi bisogna sempre andare in giro, andarsela ascoltare dal vivo la musica. Beh, sì, insomma, dal vivo è più divertente, no? Che stare a casa. Finalmente, quello, bravo! Non c'è dubbio. E quindi, insomma, però la cosa importante è vero, come dicevi tu, stare, no, su internet, cercare la musica, eccetera. Però secondo me questa qui è una cosa più da addetti ai lavori. Mm. Nel senso che poi alla fine uno nella vita quotidiana non riesce a starci veramente dietro. Mm. E quindi è facile perdersi anche un po' su internet, no? Quindi trovi qualsiasi cosa da qualsiasi parte. Allora, io se posso dare un consiglio è di affidarsi a qualcuno, di seguire qualcuno. Tipo, ti piace la musica che propone Gegè Telesforo al soundcheck di Radio 24? Ok, allora inizia a frequentare quel tipo di mondo, uh-huh, no? Anche dal punto di vista di notizie. Se sei curioso, vatti a cercare su Google Robert Glasper e sicuramente qualcosa di quel genere t'arriva. Infatti, ti rimane, la radio, no? Ancora funziona, no? Anche male, se un po' insomma, i grandi network suonano tutti le stesse cose, più o meno, chi più, chi meno, no? Non entriamo nell'argomento, va bene, però la televisione non aiuta per niente. No, però, anzi, però per esempio c'è un esempio fortissimo, fondamentale, guarda, per esempio nella metropolitana di New York, uh-huh, ultimamente si fanno grandi spettacoli, cioè piccoli grandi spettacoli, molti musicisti che durante il giorno sono liberi per arrotondare il salario suonano nella metropolitana di New York, quindi c'è libero accesso ai musicisti e addirittura c'è stata un'iniziativa un po' di tempo fa fantastica di un musicista che si chiama Lioba, ovvero al secolo Lev Zurbin, che ha avuto l'idea di collegare le varie metropolitane di New York con internet utilizzando Skype, facendo suonare a tutti i musicisti sparsi nelle varie aree metropolitane lo stesso brano. Ah, hai capito? Wow. Cioè un'orchestra, certo, che ambulante, dislocata in varie posizioni, meravigliosa. E la cosa si può anche vedere in rete, una grandissima iniziativa, e questo è il futuro, dai. Beh, sì, un bellissimo se non è il futuro, esempio, quantomeno il presente. Eh sì, senz'altro il presente. Allora, per esempio un cantante che in pochissimi conoscono in Italia è questo signore che si chiama Cleveland P. Jones. Sentite che voce a Cleveland P. Jones, che sembra quasi la voce di una donna, se non fosse che poi prende delle note da baritono e anche dei falsetti che ti spaccano le orecchie. Sentite come canta Cleveland P. Jones, Surrender to Love, qui al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Just to live today. Oh. We live today for the present, knowing that it's a blessing. For our future, giving thanks for our ancestors in the past. Forgiveness for the transgressors as we dance with ancestors. Il bassista Derrick Hodge, che proprio in virtù della sua collaborazione con Robert Glasper, anzi insieme a Robert Glasper, hanno messo su gli Experiment con tutto il successo, che hanno ottenuto vittoria ai Grammy Award come migliore album R&B con Black Radio 1. Adesso Derrick Hodge, che ha firmato un contratto anche lui con la Blue Note, qui con Common, in questa sua composizione intitolata Live Today, ha lasciato gli Experiment. Questa è una notizia, un vero dolore di cuore. cuore. Sì, pare ci sia stato qualche problema interno. Di donne? No, non di donne. Devo dire, io l'ho conosciuto, lo conosco bene. Derek è un ragazzo adorabile. Casa e chiesa, nel vero senso della parola, proprio di chiesa battista, okay. Come tuo padre, no? Che canta nel coro gospel. Derek Hodge ha lasciato gli Experiment, però pare si siano già riappacificati, soltanto che in questo momento Glasper è in tournée con un altro bassista, bravo, ma certamente non forte come Derek Hodge, si chiama Barnes Travis, è un uomo, mi hanno detto, che mangia quantitativi di cibo terribile. E infatti io sono preoccupato perché, lo ripeto, domani Robert Glasper e gli Experiment con Mark Hollenburg, il batterista, e Casey Benjamin, sassofonista e vocoderista, saranno qui, e ho paura di Barnes Travis che, come dicevo, che mangia. Si mangerà di tutto. Regalagli un paio di pantaloni. No, intanto gli farò una decina di panini tipo Poldo, esatto. Glieli butto così per fargli venire il groove, e poi vediamo, faremo una bella spaghettata, insomma qualcosa di tipicamente italiano, no? Quelli mangiano, divorano qualsiasi cosa, il vino c'è, la birra pure, siamo operativi. Allora domani Robert Glasper è il nostro ospite, perché non vieni? Guarda, e domani è domenica, stai col cupo, dai. Sto a casa con la family. No, poi c'hai il gospel in chiesa. No, non porti tuo figlio, lo devi svezzare, no? Certo, andiamo tutti a sentire, si avvicina il Natale. A sentire le zie che cantano. Tuo padre che canta il gospel, no? Grazie Alex Paletta, ospite del Soundcheck Radio 24. Spero di vederti prestissimo, Alex. Ah, spero anch'io. Se fai cose in giro, insomma, fammelo sapere. Vengo volentieri a sentire che musicaccia suoni. Sei pronto? Sono prontissimo, come sempre. Perfetto. Alex Paletta, grazie, formidabile producer di radio, un grandissimo amico, formidabile DJ e naturalmente un sostenitore, posso dirlo? Del Soundcheck di Radio 24 in qualche modo? Sì, dai, grazie. Alex Paletta con noi, io vi saluto e vi lascio allora proprio tanto per pregustare il sound di domani. Robert Glasper con Le Dizzy, il brano è Gonna Be Alright. A tutti voi buona serata, ci sentiamo domani alle 15.30 con il Soundcheck, poi seconda parte dalle 19.15, quella più jazz. Buonasera a tutti da GG Telesforo e Mister o Messier, che preferisci? Ah, fai tu, Messier va bene. Messier Alex Paletta, ciao, ciao Alex. Ciao a tutti, ciao, grazie.